Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio. Oggi esce la sesta guida pratica del Sole 24 Ore. Di certo il tema è uno di quelli che non vorremmo tanto affrontare con questo sole sotto l'ombrellone perché ha la fortuna di starci. Parliamo degli studi di settore, che sono quella modalità di accertamento reddituale per tutta una serie di contribuenti, di lavoratori autonomi in particolare. Oggi, oltre a presentare la guida, che ha la consueta modalità di interazione con gli esperti del Sole 24 Ore, poi vi spiegherò in cosa consiste, parleremo anche delle novità recenti introdotte dalla manovra economica, la più importante delle quali è la mini proroga dei pagamenti di Unico 2010. Chi ha la partita IVA ed è soggetto agli studi di settore può infatti pagare le imposte fino al 6 luglio senza alcuna maggiorazione e fino al 5 agosto con il supplemento dello 0,4%. Allora, le modalità di interazione che vi anticipavo prima con i lettori: fino alle 18 di stasera i lettori del Sole 24 Ore hanno la possibilità di inviare quesiti sull'argomento collegandosi al sito del Sole www.ilsole24ore.com/, cioè la barra di traverso, studi-settore, scegliere l'argomento della domanda, inviarla, le risposte saranno pubblicate sul Sole 24 Ore a partire da domani. Devo dire che la guida di stamattina mette a dura prova i non addetti ai lavori, quindi vi invito ad aiutarmi ad animare la trasmissione. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere alle 349-238-6666. Mi aiuteranno a rispondere ai vostri quesiti il dottor Giampaolo Ranocchi, fiscalista ed esperto del Sole 24 Ore, autore tra gli autori della guida operativa di questa mattina, e Claudio Carpentieri, responsabile dell'ufficio politiche fiscali della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Prima di entrare però nel vivo della trasmissione dedicata agli studi di settore, come avete sentito nel giornale radio, stamattina è in corso a Milano, a Piazza Affari, la consueta relazione annuale della Consob. Davanti al Gotha della finanza italiana c'è anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti ed altri esponenti del governo. Questa mattina peraltro l'attenzione dei presenti è rivolta alle parole di addio che il presidente Lamberto Cardia sta pronunciando in vista del nuovo incarico al vertice delle Ferrovie dello Stato al posto di Innocenzo Cipolletta. Al posto invece di Cardia alla Consob arriva il presidente appunto dell'autorità garante del mercato dell'antitrust Catricalà. E comunque ci fa il punto della situazione questa mattina su quanto ha già dichiarato il presidente uscente della Consob, il nostro Stefano Totoro, collegamento da Piazza Affari. Stefano, buongiorno, aggiornaci. Buongiorno Deborah, a te e agli ascoltatori. Crisi e normativa dei mercati sono al centro della relazione del presidente uscente Lamberto Cardia. Cardia ha sottolineato come la crisi economica si sia propagata rapidamente all'intero sistema finanziario mondiale, evidenziando un grado di interconnessione, ha detto Cardia, mai visto prima fra fattori diversi e aree geografiche apparentemente distanti fra loro. Il presidente della Consob, parlando alla Gotha della finanza italiana qui a Piazza Affari, ha messo in evidenza come sia necessario superare a livello europeo la logica degli interventi di emergenza. Occorre rimettere mano, ha detto Cardia, all'assetto istituzionale che è alla base della moneta unica. L'euro si dimostra tuttora, secondo il presidente Consob, un progetto incompiuto. Si parla ovviamente anche delle regole, della riforma, delle regole dei mercati. Le autorità di vigilanza devono dare il loro contributo, ha detto il presidente della Consob, necessità dettata anche dalla crisi degli emittenti sovrani che sembra aver conferito un nuovo impulso appunto al processo di ridefinizione delle regole. Naturalmente si parla del mercato azionario italiano. Cardia ha fatto un punto sulla Borsa di Milano dicendo che ha risentito della crisi più delle altre maggiori piazze finanziarie. Dal 15 settembre del 2008, ha sottolineato il Presidente, l'indice FTSE MIB ha perso circa il 30% e nello stesso periodo i principali mercati hanno invece avuto perdite più contenute che vanno dal 4% di Francoforte al 19% di Parigi. Però sul ruolo della borsa in Italia Cardia ha detto appunto che deve svolgere un ruolo di maggiore rilievo rispetto a quello assunto fino ad oggi. La borsa deve tornare a essere un grande bacino di risparmio al quale possono attingere le imprese per finanziare la crescita. Naturalmente i punti sono moltissimi, affrontati nel corso della relazione, nell'incontro annuale con il mercato finanziario. Per il momento direi che tutto, se avete domande da studio. Grazie Stefano, siamo a posto così, ti ringrazio per i tuoi aggiornamenti, tanto con continueremo anche nei prossimi appuntamenti con il giornale radio stasera Focus Economia ad approfondire i temi della relazione di Cardia, che peraltro avrebbe anche rivolto, lo abbiamo visto dalle agenzie, una sorta di indirizzo già di comportamento al suo successore. E Cardia ha detto: il mio successore stia fuori dalle luci della ribalta, perché comunque la Consob ci ha insegnato in questi anni anche ad aver mantenuto appunto per quanto possibile atteggiamenti proprio di basso profilo in termini di comunicazione. Comunque un'autorità che ha lavorato moltissimo infliggendo anche diverse sanzioni, ma senza mai appunto suscitare grandi clamori da parte della cronaca. Forse a volte non è intervenuta quando doveva intervenire per certi casi eclatanti, come è successo lo scorso anno su Alitalia, ne abbiamo parlato tante volte, ma in ogni caso il tema è appunto stare fuori dalle luci della ribalta, così Cardia avrebbe parlato nei confronti di Catricalà. Allora, noi lasciamo invece la relazione della Consob. La borsa stamattina, come vi anticipavo nel giornale radio, è molto positiva, guadagna oltre un punto sui principali listini, particolarmente Piazza Affari, più 1,12%, un po' più indietro Londra, più 0,5%, più 0,9% per Parigi, in rialzo di un punto Francoforte, euro su dollaro a 1,23,62, spicca il rialzo del Banco Popolare, più 4,49%, perché ha ricevuto un giudizio positivo da parte di una banca concorrente, Société Générale, Geox più 3,34%, Exor più 3,30%, più 3 per UbiBanca, più 3 per Pirelli, Popolare di Milano più 2,76%, Tenaris più 2,68%, questi titoli con i rialzi più forti. Appena negative troviamo l'Ottomatica meno 0,27%, Intesa meno 0,21%, Mediaset meno 0,05%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Allora, le novità relative agli studi di settore, per qualcuno materia un po' complicata da comprendere, compresa la sottoscritta, per altri invece un tema con il quale confrontarsi, non solo per commercialisti e professionisti ma anche per molti contribuenti da diversi anni. E noi facciamo un punto della situazione stamattina per capire intanto che cosa sono questi strumenti di accertamento del reddito, sulla base dei quali molti contribuenti, lavoratori autonomi in particolar modo, pagano le tasse, e cosa sta cambiando, perché quest'anno ci sono stati, come l'anno scorso, anche dei correttivi che hanno tenuto conto della crisi economico-finanziaria a cui siamo stati tutti quanti sottoposti, e ci aiuteranno ad orientarci meglio nella materia e nelle novità stamattina i nostri ospiti, che vi ho già presentato prima, adesso li saluto. Dottor Giampaolo Ranocchi, fiscalista, esperto del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno anche al dottor Claudio Carpentieri, responsabile ufficio politiche fiscali della CNA. Buongiorno anche da parte mia. Eccoci qua. Vorrei cominciare subito con Ranocchi, perché ho già detto prima che tra gli autori della guida pratica che esce questa mattina con il Sole 24 Ore, magari per aiutarci ad orientarci su quali sono stati i temi più importanti che avete toccato, Ranocchi, nella guida, che peraltro dà anche la possibilità, come ho già spiegato prima, ai lettori di inviarvi dei quesiti. Lei è tra gli esperti che rispondono appunto a queste domande che possono inviare i lettori, e quindi quali sono i temi più importanti che compaiono sulla guida pratica del Sole di stamattina, Ranocchi? Beh, abbiamo approfondito principalmente le novità che sono state esplorate anche dalla circolare 34 delle entrate, quindi la guida verte sulle principali implicazioni della gestione dei modelli studi in unico 2010, con particolare riguardo ai correttivi anticrisi, come giustamente ha detto lei, con particolare riguardo a un tema molto tecnico che è la gestione dei compensi degli amministratori soci per gli studi che sono stati revisionati, ma entriamo davvero in tecnicismi particolarmente approfonditi, e con poi la gestione delle cosiddette anomalie, assunto che gli studi sono uno strumento presuntivo di accertamento, quindi certamente in quanto elaborato statistico non riesce a cogliere, a personalizzare in maniera assolutamente specifica la stima che fa nella congruità, appunto le modalità per segnalare le eventuali anomalie che possono derivare dall'elaborazione dello specifico studio di settore. Benissimo. Claudio Carpentieri, è obbligatorio per un professionista, per una partita IVA, per un lavoratore autonomo fare la dichiarazione dei redditi attenendosi agli studi di settore, affidandosi agli studi di settore, una facoltà? Assolutamente non è obbligatorio. Questa garanzia l'abbiamo avuta sempre in progressione, a partire da una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2008 e ribadita poi nel 2009 con un'ulteriore circolare. Perché qual è lo strumento? No? Perché per far capire anche ai radiospettatori di cosa stiamo parlando, di uno strumento induttivo che lega i costi ai ricavi, quindi spiega la formazione dei ricavi partendo dai costi, dividendo il mondo delle imprese in gruppi omogenei, cioè si mettono insieme tutte le imprese che fanno la stessa attività nello stesso modo, e si vede, si studia la relazione che c'è tra costi e ricavi. Si produce un elaborato statistico che dice che se fai quella produzione in quel determinato modo, appartenendo quindi e anche a quel per esempio omogeneo, in quel determinato territorio, perché in anche quel determinato assolutamente territorio, e questo elemento di territorialità è sempre stato sempre più presente, più concreto, specialmente adesso pure proprio nel settore dell'edilizia, allora se tu mi dichiari quei costi stando in quel cluster avrai anche dei ricavi stimati, quindi stimano i ricavi gli studi di settore e ovviamente in modo conseguenziale anche il reddito. Due numeri per non darvi di più: gli studi di settore sono 206 e i gruppi omogenei, cioè queste diverse relazioni, sono più di 3.000. Quindi voglio dire, per ridurre il rischio che vengano scambiati per regole mele, per capirci, no? Mm-hmm. Il soggetto è congruo se presenta il volume di ricavi che emerge da questa relazione, il soggetto non è congruo se non dichiara quel volume di ricavi emergente da questa relazione. Per tornare alla sua domanda, dichiarare quel volume di ricavi non è assolutamente obbligatorio, ma non è che lo dico io o lo dice l'Agenzia delle Entrate nelle circolari che dicevo prima, lo dicono i fatti, perché ogni anno mediamente i soggetti che non sono congrui e non intendono perché non raggiungono effettivamente quel volume di ricavi sono 900.000. Sono molti, è una cifra molto rilevante? Sono praticamente 900.000 su 3.700.000 soggetti, quindi sono in genere sui 22-23%, diciamo complessivamente, no? Ecco, gli accertamenti a mezzo studi colpiscono solamente un 6%. Nel 2009, do il numero preciso, fonte Agenzia delle Entrate, sono stati 56.437. Cioè, questo per dire che all'interno dei non congrui viene fatta giustamente dall'agenzia una selezione dei soggetti a più grado e rischio di evasione. Certo. Guardando l'andamento del reddito. Perché non si riesce a fare un controllo a tappeto, Carpentieri, oppure perché magari per certe posizioni di non congruità dichiarate si accerta che effettivamente la non congruità è reale, quindi non c'è, come dire, un elemento che magari porta l'Agenzia delle Entrate a considerare che ci possa essere una situazione di evasione alla base? Assolutamente questa seconda ipotesi, ma questo è evidenziato proprio in queste circolari, dove si evidenzia che nell'invito al contraddittorio, cioè nell'invito che viene mandato a uno di questi 56.000 rotti soggetti, deve essere scritto: guarda, sei stato selezionato perché sono 3-4 anni consecutivi che non sei congruo, perché l'andamento della tua redditività non è spiegabile. Non spiega il mantenimento dei piedi dell'azienda, ovvero perché ci sono degli elementi di spesa che pongono delle incongruenze rispetto al reddito, cioè esistono degli altri elementi che lasciano presagire che quella differenza tra i ricavi dichiarati e i ricavi stimati dallo studio sia concreta. Mm-hmm. Questo è l'elemento di forza, questo per dire che chi non riesce a raggiungere quel volume di ricavi, ma non lo riesce a raggiungere per la crisi, per un motivo particolare per cui ha un elemento di diseconomia nell'attività d'azienda, non è obbligatorio ad adeguarsi, perché evidentemente, spero, non venga selezionato in queste liste di controllo. Allora, il problema dopo sono i contraddittori. Sì, e ci andiamo nella seconda parte di Salvadanaio. Carpentieri, adesso io ho un minutino di tempo, volevo rifare un'altra domanda anche a Giampaolo Ranocchi, anticipandovi che ci sono già delle domande da parte dei nostri ascoltatori all'800240024 e anche dei quesiti al 349-238-6666. Quali sono i correttivi più importanti, dottor Ranocchi, che sono stati introdotti con la recente manovra di aggiustamento dei conti pubblici, oppure c'erano stati degli interventi precedenti a questa serie di misure straordinarie appunto introdotte di recente? Beh, i correttivi innanzitutto è il secondo anno che trovano applicazione per gli studi di settore, hanno la funzione di fare monitoraggio della crisi e quindi di temperare, diciamo, la stima di congruità, l'analisi che farebbe Gerico ordinariamente. Quest'anno i correttivi sono stati oggetto di manutenzione, nel senso che elaborando anche i dati delle dichiarazioni dello scorso anno e in parte anche i dati del 2009 è stato possibile cogliere in maniera più analitica come si è evoluta la crisi nell'ambito delle piccole e medie imprese. Quest'anno di correttivi ce ne sono di quattro tipi, si definiscono correttivi specifici, quelli che riguardano alcune specifiche tipologie di studi di settore, poi ci sono correttivi congiunturali che riguardano l'intera categoria, che interessano solo solo, si fa per dire, 147 dei 206 studi di settore, e i correttivi individuali che solitamente scattano quando si è in presenza di un calo di ricavi o di compensi 2009 rispetto agli anni di monitoraggio che sono il 2008 o il 2007. Poi c'è un correttivo specifico che riguarda, diciamo, l'anomalia del magazzino. La crisi sulle imprese evidentemente si è fatta sentire sulle scorte, un calo delle vendite, quindi è fisiologico che le rimanenze del magazzino possa crescere, assunto che lo studio di solito pesa proprio il magazzino come elemento per elaborare quelle analisi di congruità a cui faceva riferimento prima Claudio, e questo correttivo tende proprio a tenere presente che c'è stato un fisiologico incremento in molti casi del magazzino proprio perché c'è stata difficoltà a vendere. Più o benissimo. Meno questo è in estrema sintesi la logica. Che succede quest'anno? Grazie. Allora, ci dobbiamo fermare solamente per un paio di minuti per la pubblicità, il meteo, poi sentiremo Ernesto da Padova, Paolo da Ferrara. Il dottor Ranocchi ha citato anche un'altra parola che a molti risulterà incomprensibile, Gerico. Vi spiegheremo che cos'è anche questo applicativo informatico, questo software, non è solamente il nome di una famosa serie televisiva americana. Oggi a Salvadanaio affrontiamo le tematiche fiscali con gli studi di settore. Tutti i lavoratori che devono effettuare, sono soprattutto i professionisti, i lavoratori autonomi, la dichiarazione di redditi attenendosi appunto a questa modalità di accertamento del reddito. E stamattina con noi Gianpaolo Ranocchi, fiscalista, esperto del Sole 24 Ore, fra gli autori della guida pratica che esce stamattina con il Sole, studi di settore, le novità 2010, è la numero 6. Ogni lunedì abbiamo avuto da 6 settimane a questa parte appunto la guida pratica da presentare a Salvadanaio, che vi dà l'opportunità di inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore. Collegatevi al sito del Sole 24 Ore, troverete tutte le indicazioni appunto per rivolgere le vostre domande, troverete le risposte a partire da domani sul Sole 24 Ore. L'altro nostro esperto di stamattina è responsabile dell'ufficio politiche fiscali della CNA, Claudio Carpentieri. E abbiamo subito le domande degli ascoltatori all'800240024. Cominciamo con Ernesto da Padova, che si è prenotato per primo. Buongiorno Ernesto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Cercherò di essere più breve e conciso possibile. Grazie Ernesto. Allora, io sono titolare di una società che si occupa di forniture ospedaliere, quindi lavoro direttamente con la sanità, non ho interlocutori privati. Facciamo ausili per disabili, nella fattispecie sistemi per la prevenzione delle piaghe, e siamo solo due produttori in Italia. A questo punto, negli anni, a causa anche delle gare d'appalto, i profitti sono, non dico crollati, ma insomma, drasticamente diminuiti. Perché le gare sono sempre più grandi e la tecnologia e la richiesta di impiego di personale è aumentata, quindi l'azienda è cresciuta, ma inversamente, proporzionalmente, sono calati sia i ricavi che i guadagni. Io non sono congruo ormai da molti anni. Però è anche vero che uno studio di settore sul mio che sia settore, rappresentativo della sua situazione, certo, è difficile. Siamo in due in Italia, probabilmente 6-7 nel mondo, è abbastanza difficile. Quindi cosa mi devo aspettare? Cioè, io non mi adeguerò perché non c'è la possibilità. Cosa devo fare? Certo, qualora anche fosse oggetto di un accertamento. Claudio Carpentieri, in quanti settori, io immagino che ci siano nel nostro paese tanti ambiti produttivi che fanno fatica ad identificarsi in studi di settore globale, questo è il caso di Ernesto, mi sembra abbastanza significativo. Due sole aziende in Italia che operano in questo comparto, una società di forniture ospedaliere, peraltro lui ce l'ha raccontato al centralino, fanno sistemi per la prevenzione delle piaghe per anziani e disabili, è veramente una micronicchia. E lui dice, insomma, io come faccio a dichiararmi congruo e ad appartenere ad un settore che magari stabilisce che ha dei ricavi che sono al di fuori completamente di quelli che faccio io? La domanda del radioascoltatore è molto importante, perché mi consente di sottolineare una cosa, che è proprio quella che poi volevo dire da principio, cioè se un soggetto non si riscontra in nessuno dei 3.000 cluster creati all'interno di 206 studi di settore. 206, sì. Comunque sono 3.000 cluster, cioè gruppi omogenei sono importanti, no, come numero. Però se uno non ci si riscontra, non esiste nessuna relazione sostanzialmente che lega i suoi costi ai suoi ricavi, perché non sta dentro nessuno dei 3.000 cluster. No, quindi in teoria dovrebbe essere facile per Ernesto dimostrare, qualora fosse oggetto di un accertamento, che poi non è detto neanche che lo sia, quindi può essere che continui a dichiarare la sua non congruità in totale serenità, ma qualora fosse oggetto di accertamento potrebbe facilmente dimostrare la sua situazione? Quello che secondo me assolutamente sì, perché l'elemento principale è: io lavoro secondo logiche, secondo relazioni, costi ricavi che non stanno in nessuno dei 3.000 cluster. Questo è il suo primo motivo di un'eventuale controdeduzione prima del contenzioso, anche in contraddittorio. Tra l'altro ricordiamo che è una situazione in continua evoluzione, perché io mi sono un po' anche informata su come si è evoluta la situazione degli studi di settore nel nostro paese, andandomi a documentare sul sito della SOSE, che è la società alla quale è affidato il compito di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, alla realizzazione e all'aggiornamento degli studi di settore. Quando questo sistema è partito nel 98 erano 45, adesso, come ci dicevano i nostri esperti, sono 206, per cui non è detto che con gli anni diventino ancora di più, proprio per testimoniare, per continuare a dimostrare sempre meglio e a certificare sempre meglio le qualità, la qualità molto eterogenea appunto degli ambiti produttivi del nostro paese, che peraltro, come sapete, è fatto di tante piccole e medie aziende che operano davvero nei comparti più disparati. Paola dalla provincia di Ferrara, buongiorno a lei. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Paola, guardi, se mi fate i complimenti sul tema di stamattina veramente sono stracontenta, perché... Guardi, invece io per niente contenta a proposito di questo tema. Io ho un piccolo negozio, 50 metri quadrati di alimentare, le voglio dire, e mi sono adeguata, poi dopo un certo punto non ce l'ho fatta più, perché secondo quello che incassavo le tasse, mi dirà, può anche chiudere. Beh, insomma, ci mancherebbe altro Paola, perché anche ci saranno delle alternative particolari. L'anno scorso ho avuto un accertamento, ho portato la mia associazione, ci ha guardato, riguardato, guarda qui, guarda lì, insomma alla fine mi ha detto, lei dice è meglio che lo paghi. Paola, insomma, lei ha avuto un accertamento perché aveva dichiarato la non congruità? Esatto. E difatti sto pagando 550 euro ogni tre mesi, sì, per due anni. Però sono cifre esorbitanti, praticamente io lavoro per quello adesso. Sono praticamente 2.300 euro l'anno, quindi lei ha ricevuto sostanzialmente tipo una sanzione per 4.600 euro? Esatto, ho fatto un conto. Io quest'anno poi non mi sono mica adeguata allo stesso, perché non ci sta. Allora, con lo studio di settore sarebbero stati 5.000 euro, 4.000 e tanto. Senza studio 1.800, cioè io non so dove li vadano a prendere, perché io sono con un'associazione e mi fido ciecamente di quello che mi dicono loro, naturalmente. Infatti, no Paola, peraltro, quando io ho fatto a febbraio un'altra trasmissione su questo argomento, mi ricordo che alcuni contribuenti, alcuni lavoratori denunciavano, tra virgolette, il fatto che effettivamente a fronte di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, e di fronte al quale era assolutamente difficile dimostrare la non congruità, come il caso di Ernesto, che opera in un settore talmente particolare che ha facilità nel farlo, ecco, i commercialisti in genere, come dire, suggeriscono proprio di pagare le sanzioni comminate, Ranocchi, proprio per non saperne leggere né scrivere, magari per non essere passibili di accertamenti ulteriori che magari possono portare anche a delle conseguenze economicamente più pesanti. È una conclusione errata? Sì, è una conclusione errata, semplicistica, nel senso che, come spiegava bene Carpentieri, gli studi di settore sono un mondo estremamente variegato e poi davvero per molti aspetti anche difficile da maneggiare. E la questione del risultato standard, perché lo studio, per quanto perfezionato, per quanto possa essere personalizzato, è comunque un elaborato che risulta sulla carta, è vero sull'elaborazione dei dati strutturali, contabili, ma è un dato standardizzato. La Cassazione ha detto chiaramente che il risultato dello studio da solo non è che possa reggere un accertamento, perché è una presunzione semplice, e in quanto presunzione semplice non fa prova, non giustifica di per sé, isolatamente considerato, un eventuale accertamento fiscale. Certo che e questa è una constatazione concreta, che a fronte di un invito contraddittorio che poi può sfociare in un accertamento, affrontare quello che può essere il rischio e il costo anche di un contenzioso, perché non sempre si trova nell'ambito del contraddittorio la disponibilità da parte dei funzionari dell'agenzia di apprezzare quelle che sono le considerazioni difensive. Il costo che eventualmente può essere anche sostenuto per quello che può essere il contenzioso, che poi è la strada che bisogna seguire per ottenere soddisfazione, in taluni casi, senza voler fare un ragionamento eccessivamente generalista, può anche consigliare, soprattutto considerando che attraverso la definizione immediata si possono ottenere delle riduzioni sulle sanzioni erogabili. Vi faccio dire una cosa, perché l'argomento è talmente ampio che liquidarlo in pochi minuti al telefono davvero si rischia di essere eccessivamente generale. Però ecco, come giudica il caso dell'ascoltatrice di Ferrara? Non sono in grado di giudicarlo seriamente al telefono, nel senso che potrei dirle che oggi ci sono dei contribuenti che vengono definiti marginali, cioè che esercitano l'attività con una struttura in un ambito talmente modesto, talmente borderline, che presentano fisiologicamente delle condizioni che possono giustificare la non applicabilità degli studi di settore. E ma anche l'accertamento in questo caso. Mi scusi, non ho sentito. No, anche l'accertamento in questo caso. Certo, anche l'accertamento. Però mi sento di suggerire una cosa. Da qualche anno sul modello studi c'è un campo che si chiama annotazioni, nel quale si possono già indicare preventivamente quelle che sono le giustificazioni, cioè gli elementi che lo studio evidentemente non coglie in quella situazione specifica. Quindi sia per quanto riguarda la situazione del signor Ernesto, sia per quanto riguarda la situazione della signora Paola, compilando quel campo annotazioni e bignamizzando, se mi passa il termine, cioè scrivendo perché, quali sono le condizioni specifiche personali che rendono in pratica inoperativo, non affidabile, non credibile la stima, l'elaborato che fa lo studio di settore, si anticipa l'Agenzia delle Entrate la giustificazione, cosa che poi, come diceva Carpentieri, viene apprezzata quando si tratta poi di fare le selezioni dei contribuenti su cui andare a mirare gli accertamenti. Ranocchi, io devo ritornare in pausa adesso, in 10 secondi, mi riesce a dire se si sono mai verificati dei casi per cui, a fronte ad un accertamento come è successo a Paola ha dovuto comunque ottemperare alle richieste dell'Agenzia delle Entrate, le diceva io continuo a dichiarare la mia non congruità, ma l'Agenzia delle Entrate comunque rivendica di essere rivendica a Paola appunto di sistemare comunque la sua posizione rispetto al fisco secondo gli studi di settore. Ci sono dei casi in cui magari nella distanza, con qualche anno di ritardo, il fisco fa marcia indietro e dice quel contribuente aveva ragione? Il fisco non fa marcia indietro, perché il marcia indietro dal punto di vista tecnico è l'autotutela. Marcia indietro ovviamente se il contenzioso è andato avanti e magari il contribuente non si è arreso rispetto alla prima... Moltissime situazioni hanno ottenuto soddisfazione in commissione tributaria, quindi i giudici tributari hanno ritenuto in moltissimi casi che l'accertamento basato sullo studio di settore non fosse legittimo, non fosse fondato. I casi sono davvero molto numerosi. Benissimo. A Salva Danaio questa mattina gli studi di settore, che vedo hanno fatto veramente sollevare l'attenzione di molti ascoltatori, ci fa piacere, perché molti contribuenti a questo regime non ci stanno, ed è Patrizia da Modena che sentiamo adesso. Buongiorno, un agente di commercio, se non ho capito male. Sì, buongiorno. Buongiorno Patrizia. Grazie per la possibilità di poter essere intervenuti in trasmissione, innanzitutto. Grazie. Niente, praticamente il mio quesito è paritario a quello del signor Ernesto e della signora Paola. Sono appunto un agente di commercio, sono in un settore tessile che purtroppo in Italia se ne parla pochissimo, e sono altri invece settori di cui si parla e si discute di forte crisi, invece noi nel tessile, diciamo, forse una nicchia anche un po' più piccola. Io appunto nella zona di Modena, potete immaginarvi le ditte che nel giro di alcuni anni hanno praticamente chiuso i battenti per una concorrenza, si sa, di tanti altri paesi, ma su questo non è che voglio discutere o meno. No, io conosco per esempio un po', nel senso che qualcuno mi ha raccontato la zona del Comasco, le cravatte, quelle parti là, insomma è lo stesso, sì. Quindi, ecco, tutto ciò, dopo entreremo dentro altri meandri che infatti, è meglio lasciar perdere. Quindi questo cosa ha comportato questa crisi per la sua dichiarazione dei redditi? Negli ultimi anni di non essere congrua. Assolutamente, sono stata chiamata appunto dall'Agenzia dell'Entrata, io ho fornito abbastanza dati per verificare che mi attenevo ai redditi dichiarati, quindi stati contro provvigioni, senza che nessuno mi avesse chiesto, però potete dire guardate che... Lei ha voluto dimostrare nella maniera più dettagliata possibile, insomma, certo, la sua situazione. Ho gestito un po' il tutto, poi il mio commercialista, anche lui, e non voglio entrare in merito di tutto ciò perché ha già risposto appunto... signore fiscalista dentro in trasmissione da voi, mi ha consigliato, fa guardi, le conviene pagare, in effetti io per non avere rogni o meno mi sono adeguata, ma questo l'ho vissuta come una coercizione pazzesca, dico ma perché quando io ti dimostro tutto ciò, e quindi insomma sono anche situazioni dove oggi come oggi sarà sempre più difficile essere congrui, soprattutto le dico in tantissimi settori e in quello del tessile che è veramente tragico. E mettono anche, a parte tutti i discorsi fiscali o meno, eccetera, poi penso che dia anche proprio un senso di malessere e di poco ottimismo per gli anni futuri che vai a lavorare. Perché vivere sempre anche, ma devo essere conto, già ci sono tantissime problematiche nel vendere, nel poter stare sul mercato, nel poter, voglio dire, seguire una clientela con tutto quello che ne consegue. Avere anche questa piccola spada di Damocle in testa, io la vivo, io personalmente, così anche in maniera molto frustrante, colleghi, sì, molto male. Perché Patrizia, sembra una cosa antipatica, ma a un livello psicologico, infatti, e invece chi agisce in malafede magari dichiara la non congruità, perché dice tanto magari rischio l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ma intanto nel frattempo magari ci provo e poi dimostrerò, aprirò il contenzioso, tanto va avanti qualche mese. Claudio Carpentieri, nella situazione di Patrizia da Modena immagino si possano trovare tante persone, ma io mi chiedo, anche alla luce di tutti i correttivi che sono stati stabiliti proprio per correre dietro a questa crisi finanziaria ed economica che ci ha veramente piegato, adesso per fortuna speriamo di poterne uscire al più presto, ma i tempi saranno, immagino, e lo sapete anche voi, piuttosto lunghi. Ma insomma, Patrizia dice: io faccio una dimostrazione della mia situazione più dettagliata possibile, sono assolutamente sicura di agire correttamente e di fare una dichiarazione dei redditi che rispecchia esattamente la situazione economica nuova che sto vivendo anche io come professionista, perché tanto il settore è in crisi e questo è quello che ho guadagnato quest'anno, eppure sono stato oggetto di accertamento e devo pagare, appunto. Che cosa diciamo, Patrizia? Allora, prima cosa, i nuovi criteri di selezione per l'accertamento, quindi basati sul rischio di evasione, sono partiti dal 2009, quindi anche se interessano ovviamente annualità passate. No, quindi la probabilità di essere selezionati cambia secondo me a partire dal 2009, sebbene nel 2009 si sono accertati anni pregressi e non anni di colpi da crisi, no? Ok, primo elemento. Quindi si spera più per il futuro. L'altro elemento, quindi selezione più puntuale, isolando le situazioni in cui l'evasione c'è, perché è vero quello che diceva l'imprenditrice, il problema degli studi è che io so prima qual è la pretesa e mi dai anche responsabilità su eventuali inefficienze, quindi l'aspetto psicologico è fondamentale. È fondamentale per dare il senso che chi sarà selezionato è solamente colui che veramente ha degli scompensi tra i redditi dichiarati, lo stile di vita e l'andamento dell'azienda propria. Ma Patrizia dice di essere assolutamente sicura di non avere questo scompenso. Il secondo aspetto è proprio questo, cioè il contraddittorio. Cioè nell'ipotesi in cui un soggetto, come non conosco la situazione dell'imprenditrice, sì, ma io parto dal presupposto di quello che mi dice, cioè che effettivamente non ha raggiunto quel livello di ricavi, dimostra un contraddittorio che ancora una volta non è maturo, non è si basa su logiche vere di discussione, no? Cioè c'è da una parte il soggetto commercialista o associazione che sia e c'è dall'altra parte l'Agenzia delle Entrate che non parlano la stessa lingua. No, il problema è che nonostante una maggiore selezione precisa manca il contraddittorio ancora. Che cosa bisogna fare? Secondo noi, quello che serve è istituire un verbale del contraddittorio in cui ognuno si assume le responsabilità rispetto a quello che dice o a quello che non dice rispetto a quello che il professionista o l'associazione sostiene. Cioè io dico che dimostro che in quel caso specifico lo studio non coglie, no? Io devo dall'altra parte, devo avere firmato, cosa mi viene risposto dal funzionario dell'agenzia che dice no, non me ne importa però niente. Intanto ancora in questa mancanza di dialogo chiaro che esiste fra le controparti, ci sono i contribuenti appunto che evidentemente ritengono di agire assolutamente correttamente nei confronti del fisco, che però devono pagare, lei capisce bene che si disinteressano anche abbastanza allegramente della mancanza di dialogo fra gli attori del sistema, però, e quindi capisco anche la frustrazione di tanti contribuenti. Renocchi, volevo tornare da lei proprio per tornare un attimo alla questione del contenzioso, del famoso contraddittorio che abbiamo indicato fino a questo momento. Quali sono le modalità con cui questo si attiva? Allora, per esempio, nel caso della nostra ascoltatrice Paola da Ferrara, che comunque alla fine ha dichiarato, non ho capito se o meno la sua congruità, e quindi ha deciso appunto di versare quanto l'Agenzia delle Entrate gli chiedeva in seguito ad accertamento. Qualora non avesse voluto farlo e avesse voluto appunto accanirsi con la dimostrazione della sua non congruità rispetto allo studio al quale teoricamente appartiene, cosa deve fare? Le strade, le soluzioni sono diverse. Mi faccia dire una cosa, Deborah, cosa al volo. Per gli studi degli agenti di commercio, il problema proprio della ricostruzione dei ricavi presunti, molto spesso si risolve confrontando, analizzando la percentuale di provvigione da mandato con la provvigione teorica presunta che risulta dallo studio di settore. Cioè lo studio ha nelle sue note interne dei dati presunti, dei dati che sono stati stimati. Nel caso degli agenti è la provvigione applicata al volume dell'intermediato. Se la percentuale, quel dato numerico che è contenuto nello studio, come nel caso presumo dell'imprenditrice, è superiore rispetto alla provvigione che ha pattuito lo stesso agente con la casa mandante, si è già scoperto l'inghippo, è lì evidentemente che lo studio non gira, lo studio non funziona. E quindi in quel caso, sempre per prevenire i problemi, nello spazio annotazioni, scrivendo proprio fisicamente sullo studio non sono congruo perché sull'intermediato io applico l'1,5% e il mio studio mi chiede il 4%, in qualche modo si è anticipata la soluzione, quindi si è anticipata la giustificazione. Tornando alla sua domanda, sì. È il contraddittorio. Ho un minuto di tempo, per cui mi rendo conto che sarà un po' difficile raccontarlo un po' come avviene tutta la sua dinamica. Proviamoci, Ranocchi. Molto velocemente, arriva l'invito al contraddittorio. Prima scelta, il contribuente accetta, quindi paga le imposte dovute, in questo caso ottiene una riduzione molto considerevole sulle sanzioni che si riducono a un ottavo dell'erogato, quindi grande sconto sulle sanzioni. Seconda ipotesi, si presenta a questo contraddittorio con l'ufficio, quindi al dibattimento con l'ufficio, si possono ottenere anche delle riduzioni rispetto alla pretesa iniziale, in questo caso se poi si definisce, come hanno fatto evidentemente anche gli ascoltatori, le sanzioni si riducono a un quarto, ma ovviamente si ottiene anche la riduzione sulla maggiore imposta grazie all'accordo bonario. La terza ipotesi è impugnare l'avviso d'accertamento e scommettere poi sull'evoluzione delle sentenze in commissione tributaria, argomentando perché evidentemente si ritiene quell'accertamento infondato. Benissimo, io vi ringrazio per, dato il tema che è piuttosto complesso, anche per la semplicità che avete utilizzato nell'esporci le vostre spiegazioni. Grazie Ranocchi, buon lavoro. Ranocchi, io ricordo che è uno degli esperti del Sole 24 Ore, che si spenderà nella risposta sulle pagine del Sole 24 Ore da domani ai vostri quesiti, che potete inviare fino alle 18 di stasera tramite il sito del Sole 24 Ore. Quindi a presto e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Grazie a Claudio Carpentieri della CNA, che invece spenderò io, a cui girerò nel pomeriggio tutte le domande degli ascoltatori che stanno arrivando all'indirizzo di Salvadanaio. Carpentieri è caduto, ci ha già salutato, ma gli ho già anticipato la bella sorpresa che gli faremo nel pomeriggio. Per cui volevo solo dire a Luigi da Roma e a Claudio della provincia di Monza e Brianza, che non abbiamo potuto fare intervenire, scriveteci e io giro le vostre domande ai miei interlocutori di questa mattina. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Noi torniamo domani. Vi abbraccio, buona giornata. Salvadanaio.